Direi che possiamo iniziare la nostra serata dedicata alla presentazione del volume Dittature di confine, Trentino Alto Adige Tirolo, 1935-1945. Un decennio difficilissimo che questa sera ci racconteranno gli ospiti che abbiamo qui con noi, iniziando da Lorenzo Gardumi, che ha curato questo libro, Paola Bernardi, che si è occupata della parte iconografica e con cui abbiamo avuto un lungo, intenso rapporto di scambi. Poi ringrazio Anselmo Gardumi e ringrazio Federico Federico Steinhaus della Comunità Ebraica di Merano, qui con noi questa sera, per aiutarci a conoscere ed approfondire anche questa tematica. Ringrazio anche la signora Bordon, che è qui con noi questa sera in sala, e ringrazio la collega Marisa Giordanella dell'Ufficio Cultura, nonché i due rappresentanti dell'AMPI, Maurizio e Monica. Ma questa sera i nomi proprio... devo giocarlo all'otto. È un tema molto difficile, ci stiamo avvicinando alla giornata della memoria. La Biblioteca Provinciale ogni anno onora questa giornata, ma non solo questa giornata, diciamo tutto l'anno cerca di mantenere vivo il ricordo, la memoria di quello che è stato, sperando che questo possa servire da monito anche per le generazioni future, ma soprattutto anche per la nostra, visto come stanno andando purtroppo le cose. Il libro è un libro di grande impatto anche iconografico, perché le foto sono emblematiche, diciamo, e molto significative, colpiscono da subito e invitano poi a una lettura approfondita. Per questa giornata della memoria di quest'anno abbiamo preparato anche una vetrina e abbiamo già introdotto così il discorso con alcune letture, in particolare nelle settimane precedenti con il gruppo di lettura localmente abbiamo letto il diario di Leopold Berman a cura di Federico Steinhaus, un ragazzo appunto, questo Leopold Berman di Merano, e gli scritti sono dal 1943 al 1946, sono stati così letti dal gruppo di lettura e devo dire che ha avuto un impatto molto forte anche dal punto di vista emotivo, insomma le persone sono state molto coinvolte ed è stata un'occasione di grande riflessione e di approfondimento. Proseguiremo tutto l'anno anche con l'arricchimento, l'integrazione ulteriore, lo sviluppo della raccolta a fondo dell'avvocato Lohner, che da anni si dedica anche all'incremento di questa raccolta che dona alla biblioteca, ma in realtà la dona alla città, al pubblico, a chiunque voglia decida di conoscere e approfondire certe tematiche. Lascio la parola alla nostra moderatrice di questa sera, che ringrazio tantissimo. È stata con una bellissima esperienza quella di collaborare con Paola Bernardi, che ringrazio, e ringrazio ancora gli ospiti di essere intervenuti e di presentarci questo libro prezioso. Grazie. Grazie mille Valeria, di ospitarci in questo meraviglioso spazio e volevo anche ringraziarvi perché alcune delle immagini pubblicate provengono dal vostro archivio, dal fondo delle acciallerie Valbruna. Per cui una di queste foto dove si vedono un sacco di teste e una folla che sta guardando qualcosa proviene proprio dal vostro fondo, quindi vi ringrazio molto. Questo volume è un progetto di collaborazione tra la Fondazione Museo Storico e Athesia Tappeiner Verlag, e colgo l'occasione per ringraziare Cassian Lanz, che è qui questa sera e rappresenta l'editore. L'intento era quello di creare un progetto che avesse ampia diffusione, che non fosse uno strumento eccessivamente colto, ma che potesse arrivare a tutti. E da lì è nato anche quest'idea di creare un prodotto con molte fotografie, no? Con un corpo notevole di fotografie. Va anche detto che in un certo senso il germe di questo volume è una mostra che è stata fatta a Trento, curata da Lorenzo Galdurmi e Anselmo Vilardi, e alcune del materiale vengono da quella, poi sono state mutate e ampliate, o alcune non sono state messe, perché chiaramente una mostra è una mostra e questo non è un catalogo, e la fruizione di un libro è completamente diversa rispetto a quella di un'esposizione. È diviso il volume in sei capitoli fondamentali, e all'interno, oltre ai testi dei due curatori, ci sono alcuni brevi saggi, e anche in questo caso, trattandosi di un volume che tratta i tre territori, Trentino, Alto Adige e Tirolo, abbiamo cercato di coinvolgere studiosi di tutti e tre i territori. Per il Trentino, oltre ad Anselmo e a Lorenzo, c'è la Maddalena Guiotto, che è anche della Fondazione, una studiosa della Fondazione Museo Storico, e l'introduzione, peraltro non di un trentino, ma allora era direttore della Fondazione... Sì, dell'Istituto Italo-Germanico della Fondazione Bruno Kessler di Trento, con il professor Cornelissen, che ha fatto l'introduzione. Mentre per l'Alto Adige, scusate, vi do queste informazioni che possono sembrare un po' noiose, poi entreremo nel merito. Per l'Alto Adige c'è un testo di Michele, un testo di Adina Guarnieri e il testo di Federico Steinhaus, mentre per il Tirolo c'è un testo della... scusatemi, ho un momento di... di Eva Fanzelter e di Peter Piak. Allora, Eva è altoatesina, però da anni lavora a Innsbruck, per cui abbiamo cercato di coprire i tre territori e di avere anche... rappresentanti di tutti e tre i territori. Io adesso l'altra cosa sulla fotografia, forse la cosa interessante e un po' che cambia quella che era un po' la tradizione rispetto ai testi storici, è quella di trattare la fotografia non come strumento ancillare al testo, ma di cercare di raccontare con tutti e due gli strumenti, no? Per cui la fotografia diventa anche fonte e strumento, con una serie di didascalie che spiegano, eccetera. Vorrei entrare nel merito. Forse Lorenzo, tu vuoi aggiungere qualcos'altro prima sul volume? Ma no, insomma, hai detto tu giustamente che questo volume non è un catalogo, si rifà però alla mostra che abbiamo organizzato ormai 9 anni fa, scarsi, 2015, quindi si rifà esplicitamente a quell'esperienza espositiva, che era, aveva l'ambizione di mettere insieme appunto le storie di tre territori diversi, quelli attualmente coincidenti con l'Euregio, per cercare di trarre un po' le fila di un percorso storiografico chiaramente di lunga durata. Ecco. E, non è un saggio, nel senso che è appunto un catalogo un racconto per immagini di quel decennio. È chiaro che noi non ci inventiamo nulla, nel senso che abbiamo studiato quello che è stato scritto in questi 80, quasi, all'epoca erano 70, insomma, negli ultimi anni, negli ultimi decenni, ecco, quindi non è che è frutto della nostra fantasia, e chiaramente, come diceva Paolo, ci sono anche gli interventi di specialisti del territorio, dei tre territori, e quindi un prodotto divulgativo, fisicamente maneggevole. Io non so se avete presente i tre volumi prodotti, editi nel 2010 o tra il 2009 e il 2010 dal Laboratorio di Storia di Rovereto, tre enormi volumi fotografici dal titolo Il diradarsi dell'oscurità, il Trentino e i Trentini tra il 1939 e il 1945, che è un lavoro spaventoso, fisicamente spaventoso, accuratissimo, ricco di immagini. Non era questa chiaramente la nostra intenzione, era quella appunto di realizzare un prodotto che fosse alla portata di tutti, un prodotto insomma accattivante anche in qualche modo, e che attraverso le foto segnasse in qualche modo dei paletti importanti di quel decennio. Vado avanti, se no, come vuoi. Non lo so, io volevo agganciarmi a cosa è successo nel 35 a Trento e Bolzano, no? Nell'agosto del 35 è arrivato Mussolini, è stato qui alcuni giorni e ha fatto i suoi comizi, soprattutto ha fatto un consiglio dei ministri a Bolzano e c'erano le grandi manovre. Io partirei da qui, no? Ti lancerei questo input per parlare del periodo che avete scelto, no? Sia a suo tempo per la mostra che per questo volume. Perché? Ma allora, all'epoca, fortunatamente, se no probabilmente saremmo morti durante la realizzazione della mostra, saremmo dovuti partire dalla Grande Guerra, no? E quindi da quella che è chiamata l'ultima guerra dei trent'anni, dal 1914 al 1945, per descrivere in maniera, non dico definitiva, ma insomma più puntuale, più articolata, più precisa, la storia di questi tre territori. Fortunatamente non l'abbiamo fatto, appunto per la nostra salute, e ci siamo limitati al 35-45. È un decennio che ci riguarda da vicino. Altri paesi potrebbero prendere un'altra cadenza temporale. La storiografia contemporanea ha allargato molto, diciamo, lo specchio cronologico della Seconda Guerra Mondiale. Non si parte più dal 1939, dal primo settembre del 39. Alcuni partono dal 1937, quindi dalla guerra cino-giapponese, altri ancora dal 31, dagli inizi del conflitto cino-giapponese. Quindi la storiografia sta cercando di inserire il dramma, la tragedia della Seconda Guerra Mondiale in un periodo di più lunga durata, caratterizzato da un'instabilità politica militare a livello planetario. Quindi noi non volevamo fare questo, non potevamo neanche farlo, perché appunto è il 35 che per l'Italia in qualche modo e anche per la Germania nel 35 che inizia il riarmo tedesco, era una data importante per molti aspetti. Innanzitutto perché inizia la prima guerra del fascismo, quindi la guerra d'Etiopia, e secondo perché ci permetteva di raccontare anche storie di coloro che avevano attraversato quel decennio, analizzandone più o meno i cambiamenti, che potevano essere appunto cambiamenti personali, collettivi, ma anche più culturali, sociali, più ampi. Questo territorio, insomma, è stato in quel decennio un laboratorio da molti punti di vista, magari Anselmo lo dirà più esplicitamente dopo, no? dal punto di vista politico, dal punto di vista etnico, dal punto di vista nazionalistico, dal punto di vista fisico, no? Questi territori avete visto anche delle immagini, non le vedrete, insomma, la costruzione che il fascismo crea in Trentino, in Alto Adige, no? Manipola il territorio, e quindi quel decennio lì era importante affrontarlo da molti punti di vista. E, appunto, avremmo dovuto partire dalla Prima Guerra Mondiale. Questo lo dico anche perché molti irredentisti trentini che aderiscono al fascismo provengono da quell'esperienza lì, provengono dalla Grande Guerra, e si ritroveranno poi a militare sotto le bandiere del fascismo nella guerra d'Etiopia piuttosto che nella guerra di Spagna o nella seconda guerra mondiale. Questi ci sono due poli fondamentalmente: i giovani, gli anziani, i redentisti che provengono dalla prima guerra mondiale, dall'esperienza della prima guerra mondiale, e i giovani che invece sono cresciuti, educati, plasmati dalla scuola fascista o dalla scuola nazista. Insomma, io penso ad alcuni personaggi che non ritroviamo qui, ma insomma in qualche modo sono emblematici, no? di quel periodo, come il conte Pier Filippo di Castelbarco, che è un irredentista nella Grande Guerra, un fiumano, che poi si ritrova a combattere nella guerra di Spagna, nelle guerre del fascismo, nella Seconda Guerra Mondiale, e finirà poi a militare nelle Waffen-SS tra il 43 e il 45. Oppure un giovane come il capitano Guido Galli, un nome che non vi dirà assolutamente nulla, ma che insomma partecipa alla guerra di Spagna, alla guerra d'Etiopia, alla guerra di Spagna, alla Seconda Guerra Mondiale, e poi tra il 43 e il 45 militerà con la Repubblica Sociale Italiana e morirà alla fine della guerra in uno scontro a fuoco con i partigiani. Ci sono personaggi, non solo trentini, che in qualche modo potrebbero raccontare quel decennio. Penso ad Alois Schindler-Holzer, che magari qualcuno di voi conosce, prende parte al pogrom della Notte dei Cristalli del novembre del 38 a Innsbruck, nazista convinto, fanaticamente convinto, arruolato nelle Waffen-SS, combatte nei Balcani, combatte sul fronte orientale. In Italia è responsabile delle ultime stragi compiute dai tedeschi in Italia e in Trentino, quelle della Val di Fiemme. Poi sopravvivrà alla guerra, ma non rinegherà mai quel passato. Ci sono quelli appunto che sono convinti fino in fondo, credono fino in fondo negli ideali del nazifascismo, ma è la guerra, quella tra il 39 e il 45, per l'Italia quella tra il 40 e il 45, 43, che cambia e incomincia a demolire quelle che fino al 40 erano state una fiducia quasi incondizionata negli slogan e nelle parole d'ordine del regime. Penso a tanti giovani, ad esempio Giuseppe Gozer. Gozer è anche lui volontario nella guerra d'Etiopia, in Spagna nel 38-39, e già all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, reduce dell'esperienza spagnola, incomincia a capire che c'è qualcosa che non va, insomma, nella politica, e non solo nella politica fascista, e comincia per lui, come per tanti altri, un processo di maturazione che in qualche modo verrà a compimento dopo l'8 settembre del 43. Ecco, l'8 settembre del 43 è uno spartiacque nazionale, locale, chiaramente. La storiografia attuale, contemporanea, insomma, sa molto su cosa accade in questi territori in quel biennio, molto meno sa cosa accade a coloro che vivono fuori dall'Alpenvorland tra il 43 e il 45, nel senso a coloro che trentini o altoatesini eccetera si ritrovano a vivere la guerra fuori dall'Alpenvorland, fuori dai confini dell'Ozav. E dal 43 cambiano molte cose, cambiano ad esempio i confini. Mi è capitato di leggere proprio ultimamente la memoria di un internato trentino che fugge dal campo di concentramento in cui è detenuto dopo settembre del 43 in Francia, riesce a valicare le Alpi, a rientrare in Trentino, ma per rientrare in Trentino ci vuole un lasciapassare. Quindi non è più il Brennero il confine, che è stato anche lo snodo un po', il contenzioso che ha caratterizzato quegli anni o gli anni precedenti, insomma. No, dopo il settembre del 43 il confine è Primolano, è Borghetto, insomma, sono i vecchi confini austro-ungarici in qualche modo, no? Si torna indietro nella storia. E quindi in qualche modo, a partire dal 1943, tutti e tre questi territori affrontano più o meno le stesse esperienze, anche se con livelli di intensità diversi. I bombardamenti alleati sono una costante, no? Che riguarda Trento, Bolzano, Innsbruck. Una più massiccia mobilitazione nelle organizzazioni militari, lavoratori e lavorative naziste. Tutte e tre le popolazioni sono sfruttate dal punto di vista del materiale umano, sia perché sono mobilitate, ad esempio io penso al CST, al Corpo di Sicurezza Trentino, o nella FLAC, o nella TOT, come sapete benissimo, un più intenso sfruttamento delle risorse economiche e materiali, infatti tra 40 e 40, 44 e 45 quella acquiescenza, insomma, che si poteva rintracciare fino a quel periodo, almeno in Trentino, comincia a sparire, perché le politiche d'occupazione diventano molto più, insomma, radicali, stringenti. Lo sviluppo difficile e tortuoso dei movimenti di resistenza, che hanno in ciascun territorio una loro storia, un loro percorso, una resistenza che però deve molto alle contraddizioni insite nel percorso storico, no? Di questi tre territori di confine, percorso che questi tre territori avevano affrontato dal 1914 in poi e in particolar modo nel decennio 35-45, penso alle opzioni, ma insomma anche ad altre questioni che in quel momento, ecco, esplodono e rendono difficile una resistenza unitaria. Ad esempio penso al Trentino Alto Adige, Trento e Bolzano non ci parleranno mai da alcuni punti di vista, per motivi anche legati alla connotazione etnica complessa dell'Alto Adige, non solo dell'Alto Adige. Sì, anche se forse direi che forse riguarda più le persone di lingua tedesca o di lingua italiana, perché un piccolo scambio con i Mascagni, con i Pedrotti, con Avio, insomma c'era, no? Sempre più complesso che altrove, comunque, no? Perché era tutto molto frammentato. Anselmo, forse tu potresti spiegare proprio la scelta a cui io ho solo accennato dei tre territori. Sì, microfono. Oh, lo avete lì. Funziona? Sì. Lo accendo. Se lo accendo forse. Sì. No. Si è acceso. Allora, io partirei sostanzialmente provando a dare una spiegazione del senso dell'operazione. E credo che la prospettiva più efficace sia proprio partire dal titolo. Nel titolo abbiamo i quattro punti fondamentali che costituiscono il senso dell'operazione. Dittature, confine, Trentino, Alto Adige, Tirolo, 1935-45. Questi quattro punti riassumono cosa abbiamo cercato di fare attraverso l'uso della fotografia e anche della testimonianza. Il perché 35-45 è già stato pienamente introdotto da Lorenzo. Aggiungerei solo una cosa, che la scelta 45 è abbastanza semplice, lineare, e quindi fine della Seconda Guerra Mondiale. La scelta del 35 ha un legame anche col concetto di dittature. In questa stagione, non nel precedente del 35, ma fra il 33 e il 35, tutti e tre questi territori, Trentino, Alto Adige e Tirolo, fanno parte di nazioni che vengono contraddistinte dall'avvento delle dittature. Noi qui abbiamo, naturalmente noi ci occupiamo soprattutto di questi 10 anni, ma abbiamo dovuto naturalmente anche presentare cosa è successo prima. Quindi dovuto rappresentare come le tre nazioni, vale a dire Germania, Austria e Italia, hanno visto il passaggio da forme di governo parlamentare allo sviluppo delle dittature. La dittatura, la prima, quella fascista in Italia, la seconda poi che avviene poi fra il 33 e il 34, l'avvento del nazismo in Germania e dell'austrofascismo in Austria. Quindi sostanzialmente questa stagione immediatamente precedente alla data del 35 è la stagione in cui questi tre territori, Trentino, Alto Adige e Tirolo, e le nazioni più in grande che li costituiscono, hanno la definitiva imposizione di regimi dittatoriali e totalitari degli dati a cui appartengono. Quindi questo è un passaggio fondamentale. Quindi uno dei temi più importanti, quindi, è il concetto di dittatura. Vediamo quindi il fallimento in questa fase storica, in tutta quella che possiamo definire l'Europa centrale, delle forme democratiche, in Germania, con la Repubblica di Weimar che decade e soprattutto dopo la crisi del 29 evolve nella tragica del regime nazista. Lo stesso problema, in forme naturalmente differenti, all'Austria, dove la fragile Repubblica austriaca, che pure era riuscita a resistere dopo la Prima Guerra Mondiale per tutti gli anni venti, e noi tentiamo di rappresentare questa Repubblica, ma anche la sua fragilità, sostanzialmente evolve anch'essa in una forma dittatoriale. Nel 1933 finisce il regime parlamentare in Austria e dal 1934 si ha la definitiva imposizione dello Stato corporativo austriaco, da alcuni definito austrofascismo, quanto poi al caso fascista all'Italia. Già nel 1922 l'Italia è voluta, l'Italia liberale ha visto il predominio fascista con la marcia su Roma nel 1922 e la presa del potere di Mussolini. Però questo non è un libro di storia delle storie nazionali delle tre nazioni. Qui noi mostriamo, come ha anticipato il mio collega Lorenzo, i tre territori, Trentino, Alto Adige e Tirolo, come laboratori di questi tre regimi. E qui credo che il termine fondamentale che ci guida è proprio il termine di confine, e quindi dittature di confine. In questi luoghi si esplicita con particolare forza la natura delle dittature e dei totalitarismi, di queste tre dittature, di questi totalitarismi. Parlo proprio, a un certo punto io avevo proposto, poi è più meglio il titolo che abbiamo, è migliore il titolo che abbiamo realizzato, ma addirittura ho proposto dittature di confini, perché qui molti degli aspetti che vediamo dei tre territori si possono mettere in luce guardando ai confini che caratterizzano questo territorio dell'odierno Regio. Il confine austro-ungarico, il confine di Hala e la sua eliminazione dopo il 1918. E questo confine è simbolico anche perché in questo volume noi abbiamo tentato di mostrare anche il tentativo del fascismo di eliminare le forme di differenza, di specificità trentina, in nome dell'inserimento dei trentini tra i veri italiani. E quindi l'operazione che verrà fatta in Trentino da parte del fascismo è quella di, in un certo senso, forse in Alto Adige è un termine che sembra strano, ma anche il Trentino subì una forma di italianizzazione, nel senso della costruzione del Trentino, dell'eliminazione del passato asburgico e dell'utilizzo della Grande Guerra come elemento simbolico per sancire la totale italianità. Io personalmente mi occupo anche di satira durante il fascismo e ho fatto una ricerca sulla satira del 1922 durante il periodo della marcia di Trento e Bolzano nei giornali trentini, e uno dei temi fondamentali di quelle vignette è l'autonomia. Nelle vignette fasciste si costantemente presentata l'autonomia e la volontà di annientamento di ogni forma di specificità e di autonomia trentina in nome della omologazione nazionale dei trentini all'interno del sistema italiano. Naturalmente l'altro confine di riferimento è il confine di Salorno, confine che con l'annessione della Venezia trentina, l'odierno Trentino Alto Adige, non esisteva. Sarà nel 26-27, con la creazione della provincia di Bolzano, che verrà costruito questo confine fra Trentino e Alto Adige. Prima, negli anni, primi anni 20, ai trentini viene dato, in un certo senso si arrogano, il ruolo di protagonisti dell'italianizzazione dell'Alto Adige e Sud Tirolo. Dopo il 26-27 questo ruolo verrà, dei trentini verrà enormemente ridimensionato e le politiche fasciste sull'italianizzazione dell'Alto Adige saranno molto più specificatamente altoatesino-sudtirolesi. L'altro confine è naturalmente il primo che viene in mente quando si parla di confini in questo territorio, il confine del Brennero. Il Brennero che diventa un confine non solo geografico. In questa fase le dittature cercano di stabilire un principio fondamentale, il principio che se si afferisce a uno Stato nazionale si deve, come cittadino, afferire a una sola lingua, a una sola cultura, uno solo Stato. Quindi la totale l'obiettivo è quello di omologare le persone, eliminare le differenze, le molteplici identità che caratterizzano un territorio di confine come quello di cui stiamo parlando, in nome della totale omologazione, o sia italiani, o sia austriaci, o sia tedeschi. Non vi devono essere contaminazioni. E in questa prospettiva si inserisce anche il tema delle opzioni. Il tema delle opzioni è sostanzialmente la definitiva imposizione, un accordo tra le due dittature per dichiarare il principio per cui si può essere italiani, se si vive in Italia si deve essere italiani, se si vuole rimanere tedeschi si deve entrare nella grande Germania. Omologazione di un territorio e di un popolo. Ultimo confine, che però non bisogna sottovalutare, è anche il confine di Kufstein, il confine fra Austria e Germania. In questo libro, noi quando si parla del nord del Tirolo del nord e dell'est, non dobbiamo dimenticare il Tirolo orientale, partiamo da un momento preciso, molto retrodatando rispetto al 35-45. Questo momento è il referendum del 1921. Nel 1921 l'assoluta maggioranza dei nordtirolesi vota per l'annessione alla Germania. Due anni prima, in Vorarlberg, nel 1919, l'80% dei votanti di un simile referendum aveva votato per l'annessione del Vorarlberg alla Svizzera. Perché? Perché uno delle questioni molto forti dell'identità austriaca è stato, nell'immediato dopoguerra, il passaggio da un grande impero unito da una fedeltà anche di tipo dinastico a una piccola, fragile repubblica alpina che nel corso degli anni 20-30 cerca faticosamente di costruire una propria identità. Quindi questi due referendum ci dimostrano come la difficoltà all'origine. E dopo, in fondo, noi raccontiamo questo tentativo e questa progressiva costruzione di un'identità austriaca separata da un'identità tedesca. Tuttavia, dobbiamo tenere conto della permanenza in questi anni, come vi era stato anche nel periodo austro-ungarico, della spinta verso nord, della cultura, delle tendenze presenti nel mondo austriaco all'unificazione del mondo tedesco. E questa spinta avrà il suo inveramento in questa stagione con l'Anschluss. Sostanzialmente lì la pressione del mondo tedesco nei confronti del mondo del nazismo nei confronti dell'Austria sarà tale per cui queste tendenze presenti nella società austriaca alla fine prevarranno con questa forte imposizione di tipo dittatoriale. Quindi noi abbiamo cercato di rappresentare appunto questa stagione, la stagione in cui le democrazie in queste nazioni, in questi territori, crollano ed evolvono in forme di dittature, ma nella loro specificità territoriale. E appunto questi tre territori, con le loro con la loro storia comune, ma anche fortemente con le loro differenze, ci permettono di esplicitare con particolare forza le politiche e la visione portata avanti dai totalitarismi e dalle dittature di questa fase. Grazie mille, Anselmo. Federico, adesso per passare anche all'argomento che tu hai trattato all'interno del volume, volevo chiederti se puoi raccontarci un po' di questa comunità che c'era a Merano fra le due guerre, che era anche una comunità cosmopolita, come spesso succedeva, e forse a Merano più che in altre, no, parti. Volentieri. Per prima cosa, io vorrei un confine a quelli che sono stati adesso illustrati. Il confine culturale, perché quegli anni, in particolare prima del 35, ma vogliamo anche includere quello del 35 e degli anni successivi, segnano il passaggio brutale da una cultura che possiamo definire democratica, parlamentare, verso una cultura autoritaria in cui i destini dei popoli vengono decisi da poche persone in una struttura politica piramidale. E questo confine culturale, a mio parere, ha anche una valenza politica più generale nel momento in cui consideriamo che i nazionalismi, e lo vediamo anche oggi purtroppo, i nazionalismi sono conflittuali fra di loro. Per definizione, un nazionalismo italiano e un nazionalismo tedesco, fascista e nazista rispettivamente, erano conflittuali nei primi anni degli anni 30. E le opzioni, tra l'altro, sono state anche una conseguenza di questa conflittualità. La comunità ebraica di Merano ha in qualche modo trovato una sua identità proprio a causa di questi confini culturali oltre che politici, ed è diventata una comunità ancora più poliglotta e cosmopolita di quanto fosse in precedenza. La comunità di Merano non è molto antica, risale alla metà dell'Ottocento ed è stata sempre una comunità di cultura e lingua tedesca. Oggi non lo è più, però lo è stata come origine e come sviluppo. Questo ha fatto sì che quando sono cominciate le persecuzioni degli ebrei nell'Europa centrale, Polonia, Cecoslovacchia, Austria, Germania, gli ebrei di queste nazioni sono venuti in Alto Adige, hanno trovato un rifugio in Alto Adige, anche perché il regime fascista a quei tempi, fino al 1938, proteggeva gli ebrei contro le persecuzioni di stampo nazista. E oltre a questo, ovviamente, questi ebrei fuggiaschi si trovavano in un ambiente in cui, dal punto di vista linguistico, dal punto di vista culturale, erano in una situazione di omogeneità. Potevano parlare tedesco, avere scambi sociali in lingua tedesca, e questo li rassicurava in qualche modo. In quegli anni, parlo sempre degli anni tra il 35 al 38, ma anche quelli precedenti il 35, la comunità di Merano era una comunità prospera, ben inserita nel tessuto sociale, molto variegata dal punto di vista culturale e professionale, e rispettata. era una comunità che trovava anche nelle istituzioni un punto di appoggio alla fin dei conti. Una delle cose che voglio ricordare è anche che a Merano, per esempio, l'orchestra di cura in quegli anni suonava sempre delle canzoni e delle musiche ebraiche sulla passeggiata. E questo era un po' l'immersione della popolazione locale in quello che poteva essere anche un fattore culturale a loro sconosciuto. La comunità di Merano, come numero di iscritti, era attorno ai 900, con una grande varietà di mestieri e di professioni, che andavano da quella della sarta a quella del professore universitario. C'erano molti medici, c'erano molti sanatori retti da dirigenti sanitari ebrei, e il contributo degli ebrei della comunità di Merano allo sviluppo non soltanto economico ma anche sociale e culturale dell'Alto Adige è stato veramente importante. Grazie. A questi circa 900 ebrei si sono aggiunti altrettanti ebrei profughi dall'Europa centrale. Al Museo Ebraico di Merano noi abbiamo due documenti molto esaurienti da questo punto di vista, perché il censimento degli ebrei in Italia voluto da Mussolini nel 1938, settembre-ottobre del 1938, ha registrato con teutonica, voglio dire, precisione, non soltanto le professioni, ma anche le provenienze nazionali di questi ebrei, suddivisi per ebrei italiani ed ebrei stranieri. E tra gli ebrei stranieri, piccola parentesi, c'erano anche ebrei provenienti dalla Palestina, che a quell'epoca era sotto dominio inglese, e vengono registrati nel censimento, vengono registrati come palestinesi, cosa che oggi forse potrebbe essere motivo anche di riflessione. Dopo il 38 sono cominciate le persecuzioni anche da parte dei fascisti, l'espulsione degli ebrei dal territorio del 1939, e chi è stato espulso forse ha avuto anche la fortuna di salvarsi la vita, perché molti ebrei sono rimasti nel territorio e confidando in qualche modo nella possibilità di nascondersi, ma poi sono stati deportati non appena dopo l'8 settembre i nazisti hanno occupato l'Alto Adige. E la deportazione degli ebrei meranesi, quando dico ebrei meranesi intendo tutti gli ebrei dell'Alto Adige che facevano capo alla comunità la cui sede era ed è ancora Merano. La deportazione degli ebrei di Merano è stata la prima deportazione di ebrei dall'Italia, esattamente un mese prima di quella degli ebrei romani, una settimana dopo l'8 settembre. Cioè i nazisti hanno occupato l'Alto Adige e la loro prima preoccupazione è stata quella di deportare gli ebrei. D'altro canto bisogna anche ricordare che le deportazioni degli ebrei verso i campi di sterminio sono continuate anche dal 44 al 45, quando ormai la Germania stava perdendo la guerra, ma i treni che portavano gli ebrei ad Auschwitz, dall'Ungheria, da Rodi, dalla Grecia, da altre parti d'Europa, hanno continuato a marciare a pieno ritmo, malgrado l'imminente sconfitta del Reich. A Bolzano abbiamo avuto anche uno degli unici due campi di concentramento in Italia. L'altro era San Saba a Trento e quello era un campo di sterminio. Quello di Bolzano era denominato Polizeiliches Durchgangslager, cioè campo di transito retto da leggi di polizia, ma in realtà in questo campo molti ebrei, molti partigiani, molti oppositori del nazismo sono stati brutalmente torturati e uccisi. E di conseguenza anche il campo di Bolzano reca questa tragica nomea di campo di morte. E non so cos'altro aggiungere sul periodo tra il 35 e il 45, in questo libro chiaramente se ne parla, il mio contributo è stato abbastanza modesto da questo punto di vista, molto più importante forse è il libro che ho scritto ormai quasi 30 anni fa, 25 anni fa, sulla storia degli ebrei del Trentino Alto Adige, in particolare dell'Alto Adige, fra gli anni 30 e gli anni 40. Chiudo con una notazione che mi sembra molto importante, perché accomuna il fascismo e il nazismo. Gli ebrei non venivano perseguitati in quanto appartenenti a una religione o a un popolo, ma in quanto razza. E infatti le leggi tedesche del 35 e italiane del 38 sono leggi razziste, se vengono definite come leggi razziste. Però il fatto è che gli ebrei non sono una razza e di conseguenza sono stati uccisi ebrei che non erano tali come appartenenza religiosa o come discendenza o come appartenenza al popolo ebraico, ma semplicemente perché avevano un nonno o una nonna o un bisnonno o una bisnonna ebrei. Al museo di Merano, al museo ebraico di Merano, noi abbiamo la documentazione di come il fascismo era accurato in questa ricerca degli ebrei e come al Ministero dell'Interno, dove era stata creata una divisione razza, venissero trattati questi argomenti, perché c'era una commissione che si riuniva per valutare la percentuale di sangue ebraico nell'albero genealogico delle persone. E in base a questa percentuale si decideva, con firma del ministro Buffarini, se perseguitare l'individuo o non perseguitarlo. Abbiamo anche nelle mie ricerche, mi sono anche imbattuto in un caso molto particolare che però rientra in questa casistica, di un povero ragazzo di 18 anni, napoletano, che era di famiglia cattolica, di tradizione cattolica, ha avuto la pessima idea di convertirsi all'ebraismo poco prima delle leggi razziali. I fascisti hanno cercato in tutti i modi possibili di perseguitarlo, ma arrivando fino alla scrivania di Mussolini non ci sono riusciti. Perché? Perché non aveva sangue ebraico, perché non era di razza ebraica. Era di religione ebraica, ma non di razza. E questo purtroppo è uno dei confini culturali con i quali ci dobbiamo confrontare, con i quali ci siamo confrontati anche in passato, e che hanno segnato il destino di più di 100 ebrei della comunità di Merano, non tutti arrestati e deportati qui a Merano o nell'Alto Adige. Qualcuno di loro era riuscito a fuggire ed è stato catturato in altre città italiane. Questo è stato il destino della comunità che nel 45, alla fine della guerra, in pratica non esisteva più. Come ultima cosa, Federico, siccome qui il libro poi con le immagini va leggermente oltre al 45 mostrando tutti i rientri, adesso non vi sto a raccontare, lo vedrete, ti domando se puoi dirci brevemente, c'è stata una ricostruzione poi della comunità dopo? Sì, sarò molto breve. Gli anni dell'immediato dopoguerra sono stati anni molto difficili. La mia famiglia è tornata a Merano nel 1947, noi eravamo nascosti sulle montagne della Toscana e abbiamo vissuto, io ovviamente essendo del 1937 da ragazzino, ma comunque abbiamo vissuto l'antisemitismo che qui ancora imperava negli anni del dopoguerra e non soltanto dell'immediato dopoguerra. Io lo dico sempre, mi dispiace di essere forse non corretto politicamente, ma io dico sempre e sostengo sempre, con documentazione, che il periodo di Magnago è stato un periodo difficilissimo per gli ebrei che erano tornati a vivere in Alto Adige, pochissimi, o che comunque venivano in Alto Adige per altri motivi, perché noi avevamo anche un sanatorio ebraico nel quale sono stati ricoverati moltissimi ebrei reduci e sopravvissuti alla Shoah. E nel dopoguerra, tra l'altro, Merano è stato un crocevia, l'Alto Adige è stato un crocevia, perché c'è un libro bellissimo che è in tedesco purtroppo soltanto, che racconta di come gli abitanti della Valle Aurina hanno aiutato 5.000 ebrei sopravvissuti alla Shoah che vivevano nella zona di Salisburgo ad attraversare a piedi le Alpi, e poi in Valle Aurina c'era l'organizzazione ebraica Brichah che li aspettava e che li portava in qualche modo come clandestini in Palestina. E però al di là di questo, Merano era anche il crocevia di Odessa, l'organizzazione dei nazisti che li ha portati a fuggire in particolare verso il Sud America. E mia madre è stata interprete nella caserma inglese di Bolzano e ha sempre ricordato che passavano di là, oltre agli ebrei sopravvissuti, passavano anche di là dei nazisti che si mascheravano da ebrei per poter sfuggire poi al loro destino, e ci riuscivano, tra l'altro. E di conseguenza l'Alto Adige è stato veramente un laboratorio drammatico di un destino che è stato europeo, chiaramente, ma che qui ha avuto delle sue peculiarità, e queste peculiarità purtroppo hanno avuto il riflesso anche nei rapporti della comunità ebraica, degli singoli ebrei dell'Alto Adige con le istituzioni nell'epoca che ricordavo, e che anche per quello che riguarda la Südtiroler Volkspartei, non soltanto il governo di Magnago, è stata sicuramente antisemita. E non sto dicendo delle cose ignote e non sto dicendo delle cose non documentabili. E purtroppo le ho anche vissute ancora negli anni poi in cui sono diventato presidente della comunità ebraica, in cui venivano ogni tanto da me delle persone, degli ebrei, dei turisti ebrei, a lamentarsi di episodi, diciamo così, molto, molto dolorosi che avevano dovuto vivere. Ecco, credo che questa coda dei primi anni, dei primi 10 anni, se vogliamo, del dopoguerra, abbia avuto dei riflessi. Oggi i nostri rapporti con le istituzioni sono eccellenti, anche con la Chiesa Cattolica, anche con la Chiesa Evangelica, e di conseguenza il passaggio da una generazione all'altra, sono passate 3 generazioni, il passaggio da una generazione all'altra ha portato con sé anche questa evoluzione culturale. Fortunatamente ne siamo molto lieti, però non possiamo dimenticare quello che è stato il passato. Ecco, io penso che se qualcuno vuole intervenire e fare qualche domanda. Grazie. Nel suo intervento ha citato una data che mi ha messo un po' di curiosità. Quindi la prima deportazione da Merano è avvenuta una settimana dopo l'8 settembre, quindi addirittura prima del discorso di Mussolini da Monaco in cui è stata costituita la Repubblica di Salò. Perché, se non sbaglio, è del 17 settembre. Il discorso di Mussolini, giusto? Quindi volevo chiedere proprio questo, i fascisti sapevano dell'avvenuta deportazione degli ebrei di Merano? Erano a conoscenza? C'è qualche prova che potessero essere già a conoscenza o non si sa nulla a riguardo? Ecco. Grazie. Ma i fascisti sapevano. I fascisti fino al 1943, ripeto, non hanno partecipato alla deportazione degli ebrei, sono stati nazisti, e che i fascisti sapessero credo che sia al di fuori di ogni dubbio. Ci sono testimonianze di delazioni di fascisti che consegnavano gli ebrei ai nazisti, ma questo è successo nella Repubblica Sociale, cioè dopo l'8 settembre, quando Mussolini è in qualche modo diventato il pupazzo di Hitler, come si suol dire, come si dice banalmente, e di conseguenza anche in questo settore ha collaborato con i nazisti. Ricordo anche una cosa, che poco prima della definitiva caduta del regime di Salò, Mussolini aveva impartito l'ordine di uccidere gli ebrei che erano rinchiusi nei campi di concentramento nella Libia ebraica, nella Libia italiana. E non c'è riuscito, fortunatamente, però il tentativo c'è stato. Al di là di questo, chiaramente anche i singoli fascisti hanno fatto da delatori, hanno consegnato gli ebrei ai nazisti, non soltanto qui da noi, nel Trentino Alto Adige, ma anche nel resto d'Italia. E sono episodi però che configurano più che altro un atteggiamento individuale. A livello politico, la vera collaborazione dei fascisti con i nazisti in questo settore è venuta più tardi. Sì, aggiungerei un'altra cosa in merito alla domanda. Dobbiamo tenere anche conto della natura particolare dell'occupazione nazista in Trentino Alto Adige in quella stagione. Al contrario del resto del centro nord Italia, il Trentino Alto Adige, così come il Bellunese, non entra nella Repubblica Sociale di Salò, ma viene controllata direttamente, questi tre territori, dall'occupante nazista attraverso la zona di operazioni Alpenfornand, che è questo ente costituito nel Trentino Alto Adige, Sudtirol e Bellunese, che è venuto per staccare dalla Repubblica Sociale della Repubblica Sociale del Centro Nord Italia tutti i territori che erano un tempo appartenuti all'Impero Austro-Ungarico. C'è qui anche una spinta, non a caso c'è anche questo territorio viene affidato a Franz Hofer, che è il Gauleiter del Tirolo, con l'idea di anche dare soddisfazione alle tendenze pantirolesi presenti nella società. Quindi quando si parla della politica nazista, si deve tenere in questo territorio della sua specificità e del fatto che il fascismo viene quasi sostanzialmente estromesso nel potere, nella gestione del potere, da questi tre territori. Addirittura noi abbiamo trovato, ci sono le lettere del commissario prefetto di Trento di quella stagione, in cui si esplicita la volontà di defascistizzare il Trentino. Perché? Perché i fascisti devono essere cancellati dal Trentino e qui ci deve essere una forma di governo totalmente differente. Quindi c'è anche questo tema molto importante quando parliamo delle politiche dall'8 settembre 43 in poi. Non è un caso che i due lager rimasti siano vicino a Trieste e San Siro. Lo stesso è solo che i due lager rimasti nel nord siano quello di San Sabba vicino a Trieste e il Durchgangslager qui di Bolzano, insomma, che definiscono proprio i due territori che sono sotto dominio nazista. Questo signore. Grazie. Mi ponevo solo una domanda rispetto al concetto di confini culturali di cui parlava il professor Steinhaus, ed è questo. Innanzitutto volevo chiedere ai due diciamo redattori del libro in che maniera all'interno di questo periodo ha agito e quanto ha contato anche l'opera di Tolomei sul fronte, diciamo, culturale, sul fronte nel produrre nello stabilire dei confini dal punto di vista proprio geografico, secondo il concetto che diceva Villardi del un popolo, una lingua dentro un confine, quindi un'etnicità. E questo questa è una prima cosa che vorrei capire quanto conta, perché ci vedo personalmente una radice che continua sotterranea anche oggi nel mondo tedesco, con la rivendicazione, peraltro in forme democratiche, della richiesta di ripristinare la toponomastica in termini storico, diciamo, storici pre-Primo Guerra Mondiale. Il secondo aspetto è questo, attualizzando il concetto di confini, quanto secondo voi il confine culturale oggi all'interno di un sistema democratico può richiamare certi aspetti da parte del sentire della popolazione con certe, diciamo, rivendicazioni di non contaminazione con popoli che arrivano, o comunque paure di smarrire la propria identità. Ecco, siccome dal mio punto di vista a me sembra di cogliere poca attenzione nella popolazione rispetto a queste problematiche, quanto questo atteggiamento possa favorire, come magari è stato in quegli anni, un iniziare a erigere muri o comunque a tenere differenziato, se sono rimaste similitudini tra quel periodo e un periodo di democrazia matura come quello di oggi. Io sulla questione di Tolomei poi allora, per quanto riguarda la questione di Tolomei, io a Palazzo Moggioli, a Trento, dove abbiamo presentato il libro, ho citato una mappa di cui sono venuto in possesso del 1866. Questa mappa, fatta durante la terza guerra d'indipendenza a Milano dalla Vallardi, è una mappa del Trentino. Loro però la parola Trentino la usano per tutto il territorio che va da Ala al Brennero. E ha una caratteristica. Vi è il primo tentativo di dare nomi italiani all'intero territorio da Ala al Brennero. Nomi italiani che, essendo nomi creati prima della stagione di Tolomei, in molti casi, nell'assoluta maggioranza, sono diversi da quelli che poi genererà la toponomastica tolomeiana. Però si vede qui il tentativo, in questi anni inizia a diffondersi in ambito risorgimentale, pensiamo a Mazzini, quest'idea del Brennero come confine naturale d'Italia. E quindi l'operazione che si fa è iniziare a dire: se è territorio italiano, deve avere nomi italiani. Qui vediamo come ci sia una concezione dietro per cui un nome afferente alla mia lingua, alla mia cultura, abbia come substrato, parlando sul lungo periodo, l'idea che se do un nome mio, sto dando un senso di appartenenza, di proprietà a quel territorio a cui io do dei nomi. Quindi chiaramente tutti gli ambiti storici della contemporaneità, ma non solo, sul lunghissimo periodo possiamo dire che c'è questo tema: un nome non è neutro. Un nome, la battaglia dei nomi, è una battaglia, una discussione, un confronto che può diventare battaglia, diventa una questione, un tema, uno strumento potente di uno scontro politico e poi anche militare. Questo tema c'era stato anche nel Trentino degli ultimi anni dell'Impero Asburgico. Il mondo pangermanista pubblica mappe, pubblicazioni in cui le città, le valli trentine vengono citate con nomi tedeschi. Questo per ribadire l'appartenenza del Trentino, peraltro parola che viene rifiutata in questa stagione dal mondo pangermanista. Non si può usare la parola Trentino, perché la parola Trentino indica un'appartenenza italiana, e quindi un'appartenenza italiana può essere adito alla spinta per un'appartenenza al Regno d'Italia. Questa tendenza, questa visione, è una visione che noi vediamo sul lunghissimo periodo. Uno strumento che sicuramente poi, nel caso di Tolomei, ha raggiunto il suo pieno maturazione, la piena espressione, ma possiamo vedere questa tendenza come una tendenza di lunghissimo periodo che caratterizza a livello macrostorico queste tematiche. La risposta più complessa, perché quando io sono uno storico, quindi mi occupo di cose, insomma, non tanto lontane, ma neanche così vicine. Quindi quando si parla della contemporaneità è sempre difficile. Ma credo che, insomma, il timore che ha generato e continua a generare la globalizzazione sia un po' quello il punto di partenza, no? E quindi in una società in cui il singolo e la collettività non sanno più muoversi sotto molti punti di vista, anche perché c'è stato il crollo delle ideologie, la politica sfrutta anche e non è preparata neanche culturalmente ad affrontare le sfide del futuro. Non c'è una progettualità, non vediamo né da una parte né dall'altra la capacità intellettuale, prima che politica, insomma, di dare una visione. Io noto che la politica strumentalizza, usa parole a volte che si rifanno a certi tipi di vocabolari, probabilmente perché è talmente ignorante che non conosce quel passato lì, quindi il pericolo c'è. Come impedire che si costruiscano barriere? Questo dovremmo chiedere appunto alla politica, alla scuola, a tutti quegli strumenti che come società democratica abbiamo a disposizione. È chiaro che il periodo, il momento è molto, è molto difficile in Europa come anche in altri luoghi del pianeta. Penso agli Stati Uniti, che costruiscono un muro che separa gli Stati Uniti dal, dal Messico per evitare che gli immigrati messicani si portino negli States. Quindi è una paura globale che è un problema appunto legato a alla difficoltà di trovare gli strumenti adeguati, ecco. È una domanda, è una risposta penso banale, ma insomma credo che sia un po' questo. Ma adesso solo un micro appunto sul discorso anche delle parole. La politica, tu dicevi, non sa, non ha i termini. Sì, spesso così è, molto spesso, ma a volte usa dei termini volontariamente diversi. Allora non si parla più di Repubblica, di Repubblica Italiana, si parla di nazione, no? Questi sono degli slittamenti pericolosi, no? Che vanno verso i nazionalismi e verso tutta una forma di pensiero che in un certo senso si aggancia alla creazione di muri, di confini e via dicendo. La politica che poi sfrutta anche un impoverimento generale della società, che può essere chiaramente... A noi ci interessa quella italiana, ma lo riscontriamo anche in altri paesi, no? Quindi la paura molto spesso dell'altro, la paura che conduce anche alla chiusura, a localismi estremi, come penso a quello catalano, a quello scozzese, no? E quindi un timore di un futuro incomprensibile e denso di nuvole, ecco. Dopo magari a volte lo disegniamo noi così, dopo i fatti ahimè ci danno purtroppo torto, ma insomma dovremmo cercare di avere una visione diversa, ecco, di dare una visione, non di avere una visione, ma di darla quantomeno. Io aggiungerei solo una cosa. Ancora una domanda, abbiamo tempo per l'ultima domanda. Era solo un auspicio che un servizio fotografico, no, che è suggestivo così, sarebbe bello però che finisse con una foto delle lapidi che in tutto il Sud Tirolo, in ogni qualsiasi piccolo cimitero, c'è la lapide dei caduti sotto la Wehrmacht, perché pur essendo una popolazione piccola, in parte uscita per le opzioni, hanno avuto una quantità di caduti, che poi si parla dal 43 al 45, che basta fare una foto, siccome è un libro fotografico, quando si parla delle immagini, dei monumenti anche del fascismo, del nazismo, architettonicamente belli, però l'ultima foto io ci metterei sempre una lapide del Camposanto, perché a quello porta. Grazie. Sì. Ideologicamente è giusto, ma le immagini che sono state utilizzate all'interno del volume sono tutte d'epoca. Allora la foto meravigliosa piena di ombre del Monumento alla Vittoria è quella di Enrico Pedrotti, che faceva una ricerca fotografica strepitosa, oltretutto è stato anche partigiano e prigioniero del Lager. Ecco, per cui l'idea è bella, però abbiamo cercato almeno di mantenere una coerenza con le immagini, come documenti storici anche. Chiedo scusa. Volevo aggiungere solo una cosa. Riguardo alla domanda fatta prima, ma più in generale, molto spesso viene chiesto allo storico di esprimersi sulla contemporaneità. Chissà perché. E da una parte è assolutamente giusto. Io comunque credo, mi colpì moltissimo una frase di Gaetano Salvemini, lo storico Gaetano Salvemini, che disse in maniera molto laica che lo storico è il moderno curatore d'anime. Dovrebbe svolgere una società laica a quello che un tempo svolgeva il parroco per la comunità. Però Dall'altra parte io, quando personalmente, come interpreto la storia, io non cerco risposte alla contemporaneità nella storia, però la storia mi fornisce degli strumenti per inserire, per trasformare la contemporaneità in un anello di una catena, per inserire la